sei qui con me. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti quando sei. Orchestra di Giusy Montagnani.